GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In regione il 18% di famiglie paga un mutuo casa che al tasso variabile, calcola Banca Italia, sborsa quasi 1.400 euro in più all'anno. Medici di famiglia sono sempre di meno e anche qualche giorno di ferie a molti sembra un miraggio. L'ordine spinge per la medicina di gruppo. I più poveri e i più deboli, nell'omelia dell'arcivescovo Mazzoccato per i Santi Ermacora e Fortunato, patroni di Udine e della regione. Misura di comunità è messa alla prova. Accordo sui programmi per le pene fuori dal carcere tra CR Trieste e Ufficio Penale Distrettuale. Polizia locale impegnata in servizi di prossimità a Barcola, 2 pattuglie al giorno per prevenire eccessi e dare sicurezza a bagnanti e turisti. Attivo il servizio per l'emergenza caldo, rivolto soprattutto ai più fragili. Informazioni telefonando al numero del CUP regionale. 12:31 minuti, buongiorno da Daniele Lettige e Rita Micoli. In apertura parliamo di economia familiare. I tassi dei mutui immobiliari continuano a salire e per migliaia di famiglie del Friuli Venezia Giulia questo significa uscite sempre più ingenti. Caro mutuo, quanto ci costi? Con l'innalzamento dei tassi di interesse decisi dalla BCE, ormai al 4%, per combattere l'inflazione, cresce il peso sostenuto da famiglie e imprese che hanno ottenuto un prestito dalle banche. Prendiamo il mutuo per la casa. Secondo Banca Italia, a maggio i tassi di interesse comprensivi delle spese accessorie sono arrivati al 4,58%, numeri che allarmano soprattutto quel 18% di famiglie friulane e giuliane che a fine mese hanno la rata da pagare. Quasi la metà di loro ha un mutuo a tasso variabile, soggetto quindi ai rialzi dei tassi di interesse. Per il 2023 la Banca d'Italia prevede una stangata da 116 euro in più al mese, quasi 1.400 euro in più all'anno, un incremento del 23%, e i risparmi si assottigliano. Il livello dei depositi è sicuramente sceso, si parla di un decremento del 5% a marzo in regione, quindi sicuramente un utilizzo dei depositi anche per far fronte alle esigenze di liquidità di imprese e di famiglie. Le aziende hanno molta liquidità, la stanno utilizzando, investono la liquidità piuttosto che accedere al credito. Oneri aggiuntivi quindi che pesano anche sulle imprese, specie le PMI, che si ritroveranno a pagare oltre 640 milioni di euro di interessi in più. A quelli che erano circa 500 milioni di oneri finanziari a carico delle aziende nel 2022 andiamo a 1,1 miliardi nel 2024 per il Friuli Venezia Giulia. Per le aziende cosa vuol dire? Riduzione dei flussi di cassa, vuol dire la necessità di intervenire immediatamente con una pianificazione finanziaria almeno a 12-18 mesi per capire cosa succederà nel rimborso dei mutui e nella minor liquidità, e per molte aziende vuol dire dover rivedere i business plan. Uno, perché gli investimenti che sono già stati cantierati costeranno molto di più. Secondo, perché sarà da valutare in un'ottica diversa il ritorno degli investimenti futuri, perché il costo del denaro necessario per fare questi investimenti dovrà essere rivisto. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ferie estive a rischio per i medici di famiglia. È sempre più difficile trovare un sostituto e la situazione non sembra destinata a migliorare. Mancano i sostituti, molti medici di famiglia così si stanno scontrando con la difficoltà di trovare un collega a cui affidare i pazienti per concedersi qualche giorno di meritato riposo. L'allarme è partito dal presidente regionale della Federazione dei Medici Chirurghi Odontoiatri, Guido Lucchini. Il problema è nazionale, come la carenza di medici. 140 ad oggi le zone carenti in Friuli Venezia Giulia, aumentate di qualche unità negli ultimi mesi, ricorda Lucchini. All'ultimo bando di concorso, appena in 12 hanno accettato di entrare in convenzione. Dei 60 posti di specialità triennali aperti a marzo al CEFORMED, solo 47 sono rimasti effettivi. Di questi, in pochi hanno risposto alla possibilità introdotta di recente di cominciare subito con l'attività di ambulatorio. Per tamponare la carenza ci ha provato da ultimo anche il governo, aumentando sempre su base volontaria il massimale dei medici incaricati di guardia medica a 1000 assistiti, ma la misura non pare aver raccolto adesioni in regione. A poco sembra servito anche aver aumentato da 1500 a 1800 il massimale degli assistiti dei medici di medicina generale. La situazione resta critica e può diventarlo ancora di più da qui a 2 anni con la prossima ondata di pensionamenti, sottolinea ancora Lucchini. Conferma il quadro sconfortante il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, secondo cui una quarantina sono le zone carenti nell'azienda sanitaria Friuli Centrale, con la montagna tra quelle più scoperte. Per fronteggiare il difficile momento si stanno facendo strada anche in altre regioni le aggregazioni funzionali territoriali attive già da tempo ma non ancora molto diffuse. Si tratta di medicine di gruppo fra medici medici di medicina generale che si sostituiscono a vicenda anche in caso di pensionamenti. A Cervignano e la Tisana sono già una realtà, ricorda Tiberio, per il quale questa può essere la soluzione. Per Lucchini al momento lo sono invece gli ASAP, ambulatori sperimentali per l'assistenza primaria, che stanno aprendo nelle zone scoperte del Pordenonese, dell'area Giuliano Isontina e della Cavia, con giovani medici che si turnano a ore nell'arco della giornata, offrendo risposte in tempo reale alle esigenze della popolazione, dalle ricette alle visite alla gestione della cronicità, uno strumento emergenziale, sperimentale, ricorda Lucchini, che cessa di esistere non appena in quell'ambito territoriale ci sarà un medico di famiglia che accetta l'incarico. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Cimolai andrà avanti in continuità diretta senza più la creazione di una NewCo, con un piano che si fonda anche su un importante apporto di capitale da parte di Luigi Cimolai. Lo annuncia la società, che ha depositato presso il Tribunale di Trieste una integrazione della propria proposta di concordato preventivo presentata nel febbraio scorso, con cui vuole garantire la continuità operativa dell'azienda. Sarà questo ora a garantire, spiega l'azienda, la solidità del relativo piano industriale e finanziario. I creditori saranno chiamati a esprimere il loro consenso sulla proposta di concordato a partire dal 20 luglio e fino al 10 agosto, con l'auspicio, conclude la nota di Cimolai, che si possa arrivare all'omologa definitiva della proposta concordataria al più tardi entro la fine di quest'anno. Si è conclusa pochi minuti fa la lunga e partecipata messa nel Duomo di Udine per celebrare i santi patroni Ermacora e Fortunato. A causa della forte pioggia, l'arcivescovo Mazzocato ha benedetto le reliquie in chiesa e non nel piazzale antistante, come vuole la tradizione. Gremito il Duomo per la messa solenne celebrata dall'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato in Duomo a Udine in occasione della celebrazione dei santi patroni martiri Ermacora e Fortunato. Presente anche il neosindaco Felice De Toni, donne e uomini in abiti tradizionali del gruppo folcloristico Stelutis, volontari della Croce Rossa, Protezione Civile, Fidas, il prefetto e le forze dell'ordine. La prima lettura in friulano, la seconda in sloveno. I canti in latino hanno arricchito questa celebrazione solenne. L'esempio dei santi martiri Ermacora e Fortunato, ha detto l'arcivescovo nell'omelia, ci spinge a porre l'attenzione sui più deboli. L'arcivescovo ha fatto alcuni esempi, partendo dalle madri lasciate sole, i bambini che ricevono proposte educative discutibili, probabilmente riferimento a videogiochi, i giovani senza casa né prospettive, le famiglie impoverite, gli anziani soli. Il sindaco De Toni, al termine della celebrazione, ha citato i luoghi della città che lui ha visitato e dove la testimonianza cristiana, dice, è fondamentale: il carcere, i luoghi di accoglienza dei disabili e quelli dei minori soli, non accompagnati. A causa della forte pioggia, la benedizione delle reliquie si è svolta all'interno del Duomo e non sul piazzale antistante come da tradizione. Udine, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Progetti di risocializzazione per chi sconta fuori dal carcere le misure penali, presentato il protocollo siglato tra Fondazione CR Trieste e Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trieste e Gorizia. Per i detenuti che terminano la pena fuori dal carcere svolgendo un lavoro qualsiasi o di pubblica utilità, il rischio di commettere nuovi reati per poter sopravvivere nella società e di conseguenza tornare dietro le sbarre è più contenuto. Questo succede solo nel 20% dei casi. E se a proporre le attività sono gli enti del terzo settore, come le associazioni che si occupano di disabilità o di fragilità, e cioè di persone che come loro stanno compiendo un percorso di inclusione sociale, il detenuto ha la possibilità di conoscere una realtà nuova e di sentirsi utile. Sono queste le finalità della cosiddetta giustizia di comunità, che parte dal presupposto che la persona riconosca la propria responsabilità e diventi consapevole del danno provocato alla comunità o alla vittima. Un percorso che si fa grazie alle competenze e al tempo messo a disposizione dei circa 40 enti del privato sociale convenzionati con il Tribunale di Trieste, che gestiscono 215 posti per lavori di pubblica utilità. In questo questo contesto il protocollo firmato tra l'UDEPE, l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna e la Fondazione CRT è fondamentale. 20.000 euro il fondo messo a disposizione per coprire le spese assicurative, per la formazione sulla sicurezza e per l'acquisto di attrezzature. Attualmente a Trieste circa 450 persone sono in carico all'UDEPE per la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, una misura rivolta a imputati che chiedono la sospensione del procedimento penale impegnandosi in un progetto che prevede lavori di pubblica utilità o azioni riparatorie nei confronti delle vittime o della comunità. Trieste, Vaciucci, GR Friuli Venezia Giulia. Il Movimento dei Consumatori annuncia che da domani inizieranno le operazioni di liquidazione dell'ulteriore quota del 10% di indennizzo delle rimanenze del FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori per gli azionisti delle banche poste in liquidazione, già ammessi al rimborso in prima istanza. La compilazione e trasmissione a Consap deve avvenire entro il 31 luglio sul sito fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, sezione news. Sono a disposizione il link per accedere al modulo di variazione IBAN o per gli eredi, nonché le istruzioni operative. Negli altri casi il rimborso sarà effettuato automaticamente sulle coordinate bancarie degli azionisti utilizzate per l'accredito della prima quota di indennizzo. Ed è incentrata sulla tutela dei diritti dei consumatori anche dal punto di vista digitale e la regolamentazione del mercato dell'Unione Europea, la Summer School in programma al Polo Economico Giuridico dell'Università di Udine da oggi al 21 luglio, che sarà tenuta in lingua inglese da accademici di rilievo internazionale. Abbiamo chiesto a Elisabetta Bergamini, docente di diritto dell'Unione Europea all'Ateneo Friulano e coordinatrice del progetto, di illustrarci i suoi contenuti. La Summer School è dedicata al diritto dei consumatori, con particolare riferimento al mercato digitale, quindi contratti online, anche sharing economy e tutto quello che riguarda la regolazione dei mercati. E perché appunto la regolazione dei mercati e la tutela dei consumatori sono così importanti oggi? Un argomento con il quale ci confrontiamo tutti i giorni, perché noi tutti agiamo come consumatori e molto spesso non siamo adeguatamente tutelati in questa nostra veste. E la questione diventa particolarmente rilevante nel momento in cui ci si trova di fronte a situazioni transfrontaliere, quindi contratti conclusi magari con una controparte estera e un consumatore di uno stato diverso. A quali studenti si rivolge la Summer School e quanti parteciperanno e da dove arrivano? Parteciperanno quest'anno 30 studenti. Bisogna ricordare che questa è la 16ª edizione, quindi abbiamo già avuto all'incirca più di 400 studenti che hanno beneficiato di questo programma. Studenti che vengono da vari stati europei e in certi casi anche da stati extra europei. Quindi abbiamo studenti inglesi, rumeni, serbi, abbiamo avuto negli anni studenti spagnoli, dei Paesi Bassi, una composizione molto varia, ovviamente studenti che abbiano già una base di diritto dell'Unione Europea. Una breve rettifica alla notizia precedente: l'avvio delle operazioni di liquidazione dell'ulteriore quota del 10% di indennizzo del FIR, il Fondo di Indennizzo Risparmiatori per gli azionisti delle banche in liquidazione, è stato annunciato oggi dal Movimento di Difesa del Cittadino del Friuli Venezia Giulia. La liquidazione inizierà, come detto, a partire da domani. E proseguiamo con il giornale. La polizia di prossimità a Trieste, una presenza fissa della polizia locale a Barcola per i mesi estivi, la spiaggia dei triestini, meta o punto di passaggio anche di turisti sempre più numerosi, in particolare nel tratto che va dalla Pineta all'ultimo topolino, dove talvolta è emersa qualche criticità, è da ieri oggetto di un servizio diurno fisso per il monitoraggio dell'area per migliorare la percezione della sicurezza tra i bagnanti. importanti, prevenire condotte illecite e, nel caso, intervenire tempestivamente. Sono due le pattuglie del nucleo interventi speciali, una al mattino e una al pomeriggio, che sono a disposizione dei cittadini anche per ricevere segnalazioni o dare informazioni. Nel corso dei primi due turni sono state identificate 5 persone. Il servizio proseguirà quotidianamente per tutta l'estate. Allarme caldo, la regione si mobilita. Per chiedere informazioni, suggerimenti e consigli occorre chiamare il call center regionale 0434 223522, digitando poi il tasto 5. Il servizio è indirizzato soprattutto alle fasce più fragili, come quella degli anziani. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 14. E verrà effettuato fino al 30 agosto. Ulteriori informazioni utili su quali comportamenti adottare si possono reperire sui siti web delle aziende sanitarie, come ha ricordato oggi l'assessore alla salute Riccardi. Bere spesso acqua, fare pasti leggeri, uscire di casa nelle ore meno calde tra i consueti suggerimenti. Non lasciare mai persone o animali in macchine parcheggiate al sole, nemmeno per brevi periodi, e controllare con attenzione i bambini, gli anziani, le persone con patologie respiratorie e cardiache. E a seguito della breve ondata di maltempo della scorsa notte, sono stati 26 gli interventi dei vigili del fuoco. Il territorio più colpito, precisa una nota della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, è stato quello del comando dei vigili del fuoco di Udine, che ha portato a termine 13 interventi, 9 quelli conclusi dal comando di Trieste, 3 a Gorizia, 1 per il comando di Pordenone, ancora da eseguire 5 interventi su tutto il territorio regionale. Questa mattina sono stati attivati anche i volontari della Protezione Civile di Turiaco per la rimozione di numerosi alberi e rami rovinati nel parco dell'Isonzo e lungo le piste ciclabili. Gli interventi di taglio e rimozione delle piante sono terminati a metà mattinata, effettuato anche un monitoraggio del territorio per accertare non vi fossero altre criticità. Alle 12.46 e 30 secondi uno sguardo al tempo, cielo da poco nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature delle 11. A Trieste 26 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi e mezzo. A Gorizia 24 gradi e mezzo, a Udine 23, a Pordenone 20 gradi e mezzo. A Tarvisio 19 gradi e mezzo, a Tolmezzo 19 gradi, a Forni di Sopra e Sappada 16, sul Piancavallo 14 gradi e mezzo. Sul Monte Lossari e sul Monte Zoncolan 12 gradi e mezzo. Sulla costa a Grado 25 gradi con temperatura del mare di 26 gradi, a Lignano 25 gradi con temperatura del mare di 28 gradi e mezzo. Ora le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio in genere poco nuvoloso con caldo afoso in pianura, sulla costa soffierà vento moderato e umido da sud, variabilità pomeridiana sulla zona montana, dalla sera aumenterà la probabilità di qualche temporale anche forte a partire da ovest. Roberto Capucci, il noto stilista romano, stamattina ha visitato la mostra sul design italiano in allestimento al Goriziano Palazzo Attem-Spetzenstein. Sentiamo. Non si è soffermato solo davanti agli abiti, ma ha voluto visitare tutta la mostra goriziana dedicata al design anni 50. Roberto Capucci, nome altisonante della moda italiana, allora come i tempi nostri, che oggi ha visitato l'esposizione allestita a Palazzo Attem-Spetzenstein. Un interesse e una curiosità tuttora vivissima per i dettagli ha caratterizzato il giro delle sale, punteggiato da domande dello stilista romano sulle tecniche e le particolarità degli oggetti in mostra, con un'attenzione speciale anche per le creazioni degli altri nomi d'eccellenza della moda in esposizione nella mostra goriziana. Abbigliato in colori vivaci e acuto nelle osservazioni, Capucci ha dimostrato di avere ancora un'ottima memoria e di avere ancora a cuore il lato estetico della vita, ammirando l'allestimento che spazia dalle sedie alle auto, dai piatti ai soprammobili fino all'abbigliamento, in un viaggio ideale tra i nomi più noti che hanno dato fama al design italiano del primo dopoguerra, da Pininfarina a Fornasetti. Oltre ad aneddoti legati ad altri dei designer in mostra, Capucci ha avuto commenti elogiativi sull'impegno dei curatori per l'allestimento, fornendo loro anche informazioni finora non note su diverse circostanze. E insieme al piacere di vedere tanta bellezza, ha espresso anche commenti sulla differenza che dividono il gusto di allora da quello di oggi, rammaricandosi anche per i giovani interessati a lavorare nel mondo della moda, che ora, rispetto al passato, fanno molta più fatica. Gorizia, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso lo sport, cominciamo con il calcio, con la presentazione poco fa del neo mister della Triestina, Tilio Tesser. Sentiamo. Il pilota in serie non è cambiato. All'epoca ero giovane, la mia prima vera esperienza, ero pieno di fame e pieno di fame mi si ritrova adesso dopo 20 anni, con grande onore di essere tornato. E questo devo ringraziare la proprietà che mi ha dato questa opportunità di essere presente per me in una piazza estremamente importante dove si devono fare le cose fatte bene. La proprietà ha parlato giustamente per non dire le cose come stanno, una settimana fa hanno fatto il closing, quindi un passaggio di proprietà, tante cose da sistemare, però sicuramente la Triestina non può non partire con essere ambiziosa, questo sì, lungo termine, in un paio d'anni di cercare di essere competitivi per salire, questo sì, ci mancherebbe, ma dal primo anno cercheremo di fare il meglio, non si deve escludere nulla, non si deve avere la presunzione di sentirsi da subito protagonisti con le parole ma con i fatti. Cercherà di portare qualcuno delle sue esperienze recenti a Pordenone e Modena, magari tra i giocatori o un sistema di gioco? No, il sistema di gioco no, adesso vediamo quei giocatori che sono rimasti sotto contratto con la precedente società, che quindi questa società eredita. Stiamo facendo una serie di nomi, prima ci deve essere anche qualche uscita di poter fare le entrate e quindi questo dipenderà. Sicuramente ci sono dei ragazzi che stimo, che ho avuto a Pordenone, alcuni di loro un paio sono dentro quella lista, una lista abbastanza lunga che ho portato alla proprietà. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tennis, presentata questa mattina la quarta edizione del torneo ATP Città di Trieste, che negli scorsi anni è stato il trampolino di lancio per atleti del calibro di Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, attuale numero uno del mondo. Le gare al via da lunedì sui campi di Padriciano, ma sentiamo il direttore del torneo, Piero Tononi. Il montepremi è per la prima volta 118.000 euro. Questo è un salario del 100 che darà, appunto, si chiama 100 perché il vincitore prenderà 100 punti ATP. Il nostro torneo, appunto, come Challenger nasce nel 2020, gli anni prima era un ITF da $25.000 di montepremi. Nel 2020 abbiamo avuto la fortuna di avere come nostro vincitore Carlos Alcaraz, attuale numero uno al mondo, e in semifinale ha battuto Lorenzo Musetti, che adesso è il numero 15, e la loro rivalità è nata proprio qui a Trieste, sui campi di Padriciano. Sulla carta il favorito è l'ungherese Fabian Marozsán, che è balzato il nome delle cronache, attualmente il numero 95 al mondo, e balzato il nome delle cronache sconfiggendo proprio Alcaraz all'Internazionale d'Italia a Roma a maggio. Quando inizieranno le gare? Le gare inizieranno domenica 16, la finale invece è prevista domenica 23. E ogni giorno le gare prenderanno il via dalle ore 10 e ci sarà un match serale alle 8:30 su un campo appositamente illuminato con i lux che servono per questo tipo di eventi. E domenica avremo anche in campo due atleti triestini a cui l'organizzazione ha inteso dare la wild card, due atleti proprio del tennis club triestino, che sono Pietro Pampanin, già campione italiano under 16, e Michelangelo Flaborea Vec. Possiamo dire che questo torneo ha consolidato anche una grande presenza di pubblico? Sì, diciamo che nelle prime edizioni non pensavamo di avere tanto pubblico, infatti da qui è nata l'esigenza, già dalla seconda edizione, di illuminare un campo cosiddetto secondario per poter fare anche un incontro serale. Luglio all'insegna dei progetti internazionali per gli studenti del convitto Paolo Diacono di Cividale. Dal 17 luglio all'11 agosto la State High School di Sunshine Beach in Australia ospiterà 5 studenti dei licei del convitto. A novembre altrettanti studenti italiani erano stati ospiti dell'Istituto Cividalese e delle famiglie dei suoi allievi. In Canada, grazie all'associazione Frisalie World, saranno ospitate dal 16 al 30 luglio 3 studentesse dei licei annessi al convitto, selezionate insieme a quelli di altre 11 scuole italiane per partecipare alla mobilità prevista dal progetto di durata triennale Storia e Memorie, promosso dalla Biblioteca e Archivio Storico del Senato. Previsti incontri con i responsabili delle consulte regionali dell'emigrazione attive sul territorio del Quebec. Alcuni appuntamenti dedicati ai più piccoli all'Arena Era San Giorgio di Pordenone alle 21:30 in occasione del centenario Disney. Orchestra, si esibisce l'orchestra del progetto di Cinema Zero a colpi di note, composta da studenti dell'Istituto Comprensivo Pordenone Centro e dell'Istituto Comprensivo Rorai Cappuccini. Seguirà la proiezione del film di animazione Mumia, Spasso nel tempo. Alle 20, nell'area di festa Scussoni di via Diaz a Castigliano, nell'ambito di Sere d'Estate San Pierina del comune di San Pier di Sonzo, in scena lo spettacolo per tutte le età Due Amiche, scritto da Serena Di Blasio, anche interprete dello spettacolo stesso. Serata finale del Festival Prodi con premiazione del concorso dedicato ai giovani talenti della stand-up comedy, l'evento Stand-up Contest Night nel giardino della settecentesca Villa Sartorio alle 21 con Andrea Mitri, ex calciatore della Triestina degli anni 80, ora scrittore uomo di teatro, e Papu, il celebre duo comico pordenonese. Cecco l'Orsacchiotto sarà il protagonista del terzo appuntamento con Verdi d'Estate a Gorizia, lo spettacolo di Pandemonium Teatro alle 20.45 a Palazzo De Grazia, in via Oberdan. Per il teatro C'era una volta, la compagnia di Walter Broggini presenta nel cortile di Palazzo di Sopra, piazzetta del Tiepola, Spellimbergo, Pirù e la vendetta di Teodoro alle 20.30. Era questo l'ultimo appuntamento per questo giornale radio regionale. In regia Vassia Crisman, Ciccia Viola Romanese. In redazione ha collaborato Samantha Gonda, Daniele Lettig e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.